Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ringraziando dell'attenzione, ringraziando anche per la regia a Cristiano Valli, rinnoviamo l'appuntamento per domenica prossima alla medesima ora, augurandovi altresì una buona giornata. E ringraziamo Marco Andreoli che ha ricominciato a farci avere del materiale e ci sentiamo.